didn't mean to make you sad. Didn't know what to carry on your back. All the stones you painted with the colors of your sorrow, the black in your story will never fade. You better deal with it, don't walk away. It's a hard life to be a tough girl, but deep within buddy, couldn't carry all your fears. You didn't mean to let you down, buddy. Couldn't stay to dry your tears. From the friends you turn to when the world's getting dark in the loneliest hour, it's all fake. You better run, girl, or you will break. And it's a hard life to be a tough girl, but deep within l'intervista telefonica. Abbiamo sempre in linea Ida Evil Eye delle Crucified Barbara. Intanto, Alessia, qual era la canzone che abbiamo appena ascoltato dal nuovo disco delle Crucified? Era Jennifer, in cui i Crucified ospitano Mats Leven e Therion. Un'altra domanda sempre per Ida: in che modo i vostri fan hanno accolto la nuova release e quali sono le loro canzoni preferite? Ida, what do you think about your fans and do you think that they have accepted your new release? And what do you think is their favorite song? My favorite song from the album. The favorite song of your fans. Okay, what they like, you mean? Yes. Okay. I think we love our fans, of course. They're very nice and always respectful, and they are always cheering and being really happy at the show. So we're very glad about that. And it seems like a lot of people like Sex Action and Black and Bones, and I think that's because we put them on MySpace, so it's free for everybody to listen to. But I believe the Italian crowd is great. We love them. Yes, I made the translation. Lei dice che i loro fan, secondo lei, gli piace molto il CD, anche perché ha visto che nelle canzoni di MySpace sono moltissimo ascoltate, soprattutto Sex Action, forse è la canzone che i fan adorano di più. E poi ai concerti lei vede comunque tutti che ballano, tutti che vanno a fare i complimenti sullo show, sul CD, tutti che acquistano appunto il CD anche ai loro concerti, per cui lei pensa che il nuovo CD sia ampiamente voluto, ampiamente apprezzato, soprattutto dai fan, anche rispetto appunto a questo cambiamento rispetto al CD precedente. La prossima Crucified Barbara Song, Alessia. Sì, la prossima Crucified Barbara Song, yeah, è Blackening Bones. Gli resta ancora un'altra parte, per cui stay tuned.